L'ipotesi che sottopongo alla discussione è che la modernità nella sfera del diritto e delle istituzioni, la modernità giuridica, si afferma e avvenuta attraverso lo sviluppo di una serie di differenziazioni e di separazioni tra sfere normative, tra ambiti di vita e tra le correlative forme di potere. Indicherò sommariamente quattro tipi di separazione. La prima, ne ha già accennato Elena Pasciotti, è la separazione tra diritto e morale, quindi tra Stato e Chiese, tra poteri statali e poteri religiosi o variamente ideologici. La seconda è la separazione tra produzione e applicazione del diritto e quindi tra funzioni politiche, legislative e di governo e funzioni giudiziarie, la classica separazione dei poteri di Montesquieu. La terza separazione è la separazione tra pubblico e privato, tra sfera pubblica e sfera privata, tra Stato e mercato, tra poteri politici e poteri economici. La quarta separazione, infine, è la separazione tra Stato e società, che si realizza però in tempi relativamente tardi attraverso la mediazione rappresentativa. Si tratta di differenziazioni, di separazioni, che sono tutte garantite dal diritto e che solo un complesso sistema di immunità e di incompatibilità è in grado di assicurare, tanto che, e questa è la seconda parte della mia relazione, la crisi odierna dello Stato di diritto ed anche della democrazia può essere letta e compresa come l'effetto del venir meno o comunque dell'offuscarsi di queste quattro separazioni, cioè della violazione delle norme dirette a garantirle. Il venir meno o comunque l'offuscarsi della separazione tra diritto e morale, della separazione dei poteri, della separazione tra pubblico e privato, tra Stato e società. Cominciamo con la prima, che è sicuramente la più scontata, la più importante, tra diritto e morale, tra diritto e giustizia, che di solito viene presentata come un corollario o addirittura come il significato, dice per esempio un filosofo del diritto, Herbert Hart, del positivismo giuridico. Che cosa significa questa separazione? Io più volte ho distinto due diversi significati di questa separazione tra diritto e morale, tra diritto e giustizia, che sono entrambi all'origine della modernità, che sono fra di loro connessi e che sono tuttavia distinti. E sono entrambi connessi al riconoscimento del pluralismo morale, ideologico, religioso, culturale, politico che attraversa ogni società. La separazione tra diritto e morale è l'effetto di questo riconoscimento. In un primo significato assertivo, diciamo così, teorico, di teoria del diritto e quindi che non suppone nessun giudizio di valore, diversamente dal secondo significato, la separazione equivale semplicemente alla distinzione tra diritto e morale. In questo senso, come dicevo, è un corollario, una conseguenza logica del principio di legalità affermatosi con la nascita dello Stato moderno come monopolio della produzione giuridica e quindi come norma di riconoscimento del diritto esistente. È diritto tutto e solo ciò che è prodotto da un'autorità abilitata a produrre, che per l'appunto è il legislatore. È una grande rivoluzione che si produce, mutamento di paradigma del diritto e delle istituzioni che si produce nel passaggio fra il diritto premoderno e il diritto moderno. Il diritto premoderno era caratterizzato dal carattere sostanzialmente giurisprudenziale e dottrinario delle fonti di produzione del diritto, nel senso che il diritto, certamente esistevano statuti, ordinanze, ma era il prodotto fondamentalmente della scienza giuridica e della giurisprudenza, non esisteva una netta separazione tra produzione e applicazione, e in ogni caso non esisteva un sistema formalizzato di fonti, né tantomeno una pretesa di monopolio esclusivo della produzione normativa in capo ad un'autorità legislativa, il diritto era prodotto dalla tradizione, la scienza giuridica era direttamente normativa oltre che descrittiva, non si spiegherebbe la secolare, millenaria tradizione giusnaturalistica che arriva fino al 600, 700, 800, se non con la specifica caratteristica dell'esperienza giuridica premoderna, nella quale il fondamento di validità, anzi di esistenza delle norme, era la loro intrinseca giustizia. In altre parole, una massima di Bartolo prevaleva su una massima di Ubaldo perché ritenuta più giusta, più opportuna, più aderente al caso concreto. Non esisteva quindi una differenziazione tra diritto e giustizia. La formula che nel dialogo classico tra Hobbes e un cittadino viene utilizzata per esprimere questo modello è veritas non auctoritas facit legem, è la verità, è l'intrinseca giustizia, verità ovviamente in senso lato, che fa la legge, a cui Hobbes, che allora è il filosofo, non il giurista, perché il positivismo giuridico era un dover essere, appunto la nascita dello Stato era un'istanza giusnaturalista, questo è il paradosso hobbesiano di cui parla Bobbio, contrapponeva auctoritas non veritas facit legem, e cioè il principio secondo cui il diritto deve essere prodotto da una qualche autorità, e questo a garanzia della certezza contro l'illusione che il diritto potesse fondarsi ontologicamente su una qualche morale, per così dire, unica ed assunta come vera. La polemica hobbesiana e poi benthamiana fino a Kelsen contro il giusnaturalismo è precisamente che solo la legge positiva garantisce la certezza del diritto, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la libertà contro l'arbitrio, la soggezione dei giudici alla legge, e l'idea viceversa che il giudice debba applicare direttamente la giustizia, veritas facit legem, cioè l'idea del carattere ontologico della normatività premoderna, nasconde in realtà un'arbitraria di volta in volta opzione moralistica. Siamo sottoposti non tanto alla giustizia quanto a ciò che i giudici di volta in volta ritengono giusto, ovviamente sulla base della scienza giuridica, delle diverse opinioni dei giuristi, e proprio questa incertezza a garanzia della libertà e dell'uguaglianza di fronte alla legge che viene rivendicata contro il pluralismo morale, anzi a tutela del pluralismo morale, che inevitabilmente comporta una pluralità assolutamente incerta di soluzioni giuridiche nei casi concreti. In questo senso la separazione di diritto e morale è un'ovvietà, cioè, come dice Hart, è una semplice chiarificazione dei concetti. Il diritto è altra cosa dalla morale. Nel momento stesso in cui si è affermato il monopolio statale della produzione giuridica, il diritto è quello che è prodotto dalla legge, e questo genera un'autonomia del punto di vista morale sulla legge, che può essere per l'appunto ingiusta. Se la legge è solo e tutto ciò che produce lo Stato, produce la legge, la legislazione, la morale si autonomizza come punto di vista esterno al diritto, il punto di vista della politica, della trasformazione, e la pretesa che etico-legalista che il diritto equivalga alla morale, o quella addirittura giusnaturalistica secondo cui la morale è ancora diritto positivo, si risolvono in semplici ideologie, in fallaci ideologici, ma è utile adesso insistere su un punto che possiamo considerare scontato. Più rilevante e meno scontato è il significato prescrittivo, assiologico, della separazione fra diritto e morale. Ecco, arriva Eliccio. Il significato assiologico della separazione tra diritto e morale, in aggiunta al significato teorico, assertivo, che, come dicevo, altro non è che un corollario del principio di legalità e il fondamento del principio giuridico, e viceversa l'idea della separazione come principio liberale, come postulato del liberalismo, e come presupposto della laicità del diritto e dell'istituzione. In questo senso la separazione è un prodotto della secolarizzazione del processo di laicizzazione delle istituzioni. E anche qui, in un senso diverso da quello di cui ho appena parlato, in cui il riconoscimento del pluralismo morale è il presupposto dell'affermazione del principio di legalità, è necessaria una convenzione legale, anche in questo caso è precisamente il riconoscimento della pluralità delle morali, delle culture, delle ideologie, delle religioni, che impone come condizione della loro convivenza pacifica non una qualsiasi convenzione legale, ciò che è soddisfatto dal principio di legalità e quindi dalla prima separazione, ma una convenzione legale specifica, e che è precisamente i diritti di libertà e di autodeterminazione per tutto ciò che non produce danno ad altri. Un principio il cui corollario è il principio di offensività come unica fonte di giustificazione di ciò che è penalmente rilevante. Non ripeto una qualsiasi convenzione legale, ma una convenzione legale protetta e ancorata alla garanzia dei diritti di autodeterminazione. Questa convenzione, e cioè la stipulazione in capo a tutti e a ciascuno della libertà di autodeterminazione, è il fondamento della laicità, nel senso che consiste in un ritrarsi del diritto dagli ambiti di vita puramente morali, nell'imperativo che il diritto non deve essere utilizzato come uno strumento di sostegno o di rafforzamento della morale, ed è un principio in forza del quale i diritti di libertà non sono più soltanto, cosa che non è poco ovviamente, dei valori in sé, delle condizioni di dignità della persona, ma sono anche la condizione, il presupposto del pluralismo e della garanzia del pluralismo politico, morale, religioso, la garanzia della loro convivenza pacifica. Prendiamo l'esempio appunto del caso Englaro e della legge sulla idratazione forzata. Nel caso Englaro si contrappongono due concezioni morali assolutamente opposte ed incompatibili. Da un lato l'idea che la vita appartiene a Dio, e cioè per un non credente alle gerarchie ecclesiastiche, e quindi non può essere, diciamo, nella disponibilità neanche in caso di malattia terminale, senza speranza di sopravvivenza, nella disponibilità e nell'autodeterminazione della persona, e dall'altro invece l'idea di Mill, secondo cui sul proprio corpo e sulla propria mente ciascuno è sovrano, e l'idea secondo cui appunto la decisione della idratazione, dell'accanimento terapeutico, adesso al di là della questione costituzionale, sul piano filosofico-politico, una condizione del liberalismo, un tratto distintivo appunto dello Stato di diritto liberale, è che su queste cose appunto che non producono comportamenti che non hanno a che fare con danni a terzi, ciascuno è il maggiore interprete dei propri interessi, no? I classici principi liberali, dove il principio di autodeterminazione è l'unico, pur essendo un principio liberale che quindi riflette una delle due morali in conflitto, che consente la convivenza pacifica di entrambi le morali, perché naturalmente consente al credente o comunque a chi ritiene di non poter decidere sulla idratazione o meno, di ottenere, e quindi il riconoscimento del diritto ad essere tenuto in vita in maniera anche accanita e con grandi sofferenze, e al tempo stesso a chi viceversa non crede in questa indisponibilità o questa disponibilità della vita soltanto da parte di Dio, di decidere di morire di morte naturale. E insisto su questo fatto, i diritti di libertà sono in questo senso il presupposto del multiculturalismo. Insisto su questo punto perché viceversa di solito si afferma la tesi opposta, quella secondo cui, o di solito, alcuni sostengono che i diritti fondamentali sono l'ultimo inganno dell'Occidente, l'ultima forma di imperialismo culturale, perché di solito per universalismo, se ne parlava poco fa, si intende l'universale condivisione dei diritti fondamentali, universale condivisione che di fatto non esiste, nel senso che è falsa la tesi secondo cui tutti condividono i diritti fondamentali. Se sottoponessimo a referendum molti di questi diritti probabilmente scomparirebbero dalle nostre carte costituzionali, e soprattutto è illiberale l'idea che tutti debbano condividerli. Io ho sempre trovato inaccettabile la imposizione all'immigrato di sottoscrivere, insomma, ognuno la pensa come vuole, e i diritti fondamentali sono universali perché attribuiti a tutti, questo è il loro universalismo, in quanto persone, piaccia o non piaccia, qualunque cosa facciano o pensino, anche se fascisti o stalinisti o anarchici o che sia, la specificità dell'universalismo è precisamente l'uguaglianza. Ed è precisamente questo tipo di universalismo che consente la convivenza delle culture, perché valorizza tutte le differenze, non privilegiandone nessuno, all'insegna, per l'appunto, non dimentichiamo che il primo diritto di libertà è stata la libertà di coscienza. La libertà di coscienza è una libertà culturale che significa, anche se di solito lo si dimentica, non soltanto libertà religiosa, ma anche libertà dalla religione, non solo libertà di religione, ma anche libertà dalla religione. Insomma, per concludere su questa prima separazione, quel che è risultato incompatibile con un ordinamento liberale fondato per l'appunto sul pluralismo e sulla garanzia delle libertà di tutti è l'idea che la morale sia vera o che esista quindi un'unica morale, perché se è vera ne esiste una sola, che è una tesi, rispetto a cui la morale, e non soltanto la concezione laica del diritto, ma anche la morale laica, oppongono un modello opposto sia di diritto che di morale. Direi che questa opposizione può essere declinata in questi termini. Da un lato, penso appunto alle varie forme di moralismo o statalismo etico, o anche di moralismo giuridico, il cognitivismo etico, e cioè l'idea che le tesi morali sono vere, e conseguentemente il carattere eteronomo della morale. Se è vera, insomma, io credo che il cognitivismo etico sia la base dell'intolleranza. 2 più 2 non può fare 5. Se una tesi morale è vera, non si può ammettere la sua contestazione, quindi il cognitivismo etico è alla base della pretesa di imporre una determinata morale in quanto vera come rafforzata dal diritto. E l'altro, connotato è il carattere eteronomo, perché a quel punto diventa eteronomo, della morale, in opposizione, da laico io penso che ci sia soltanto questo, lo statuto delle tesi morali siano specificamente legate al carattere autonomo e spontaneo del comportamento morale, un comportamento morale si caratterizza per la sua autenticità in quanto non sorretto dal braccio armato dello Stato, cioè, e questo dovrebbe valere sia per credenti che non credenti, occorrerebbe rifiutare e non solo esigere, non esigere il sostegno eteronomo del diritto a, diciamo, conferma, riprova dell'autenticità del comportamento. Insomma, la moralità del volersi sottoporre ad accanimento terapeutico è assicurata dal fatto che non è imposta dal diritto, ma questo però è specificamente una concezione laica della morale. E la seconda separazione è un corollario della prima, la separazione dei poteri. E anche questa è una separazione che contrassegna la modernità, è quella consistente nella separazione tra produzione e applicazione. Insomma, vengono differenziati i due poteri nel momento stesso in cui si afferma il principio di legalità, si differenzia la produzione dall'applicazione del diritto, che non erano sfere differenziate nel diritto premoderno di carattere giurisprudenziale, o comunque la differenziazione non era affatto formalizzata. E la differenziazione si afferma come separazione, o comunque comporta come conseguenza, e questo a me pare ne rappresenta il fondamento, la separazione tra i due poteri, il potere politico di governo e il potere legislativo da un lato e il potere giudiziario dall'altro, potere di produzione e potere di applicazione. E, in altre parole, il principio giuspositivistico auctoritas non veritas facit legem è l'autorità e non la verità che fa la legge, è il presupposto e per così dire la condizione necessaria, anche se occorrerebbe dire non sufficiente, ma non si può approfondire il discorso, per dire che la verità e non l'autorità fa il giudizio. In altre parole, solo se è predeterminato legalmente ciò che il giudice deve accertare e solo se l'attività del giudice consiste nell'accertamento con mille virgolette, perché la verità processuale sappiamo è sempre una verità approssimativa, opinabile, probabilistica, ma solo se c'è la trasformazione del giudice in un organo che applica la legge o comunque che ha la legge vigente come base, al di là dell'argomentazione e dell'interpretazione che possono rendere fortemente discrezionale l'attività giudiziaria, solo in quanto c'è questo tipo di presupposto, il principio di legalità, l'attività giurisdizionale è un'attività che, di nuovo, fra molte virgolette, ha un carattere tendenzialmente cognitivo. E in quanto potere cognitivo se ne richiede l'indipendenza proprio perché, come proprio di tutte le attività intellettuali e conoscitive, nessuna maggioranza appunto può rendere vero ciò che è falso o falso ciò che è vero. Il significato della frase "ci sarà giudice un Berlino" è che ci deve pure essere un giudice che abbia la forza, cioè l'indipendenza, di assolvere quando tutti, il sovrano, la maggioranza, richiedono la condanna, è capace di condannare. Quindi è un potere contromaggioritario, come del resto sono contromaggioritari i diritti fondamentali, che per altro verso rappresentano un'altra fonte di legittimazione della giurisdizione grazie ad una seconda differenziazione. Qui non voglio complicare eccessivamente il discorso, ma certamente la differenziazione fra produzione e applicazione è la prima, per così dire, articolazione multilivello dell'ordinamento, no? Da un lato la legislazione e dall'altro la giurisdizione di grado subordinato. Una seconda articolazione multilivello sarà il costituzionalismo, e cioè la Costituzione come grado sopraordinato alla legislazione, e la legge, diciamo, intanto è valida in quanto conforme e coerente alla Costituzione, e per altro verso la Costituzione richiede una legislazione di attuazione in assenza della quale rimane appunto flatus vocis, no? Non si possono stabilire i diritti sociali, i diritti di libertà, se poi non si introducono gli ospedali o il codice penale, che so, che penalizza l'omicidio. Apre la strada all'articolazione multilivello che in una società complessa, pensiamo a una società globale, eccetera, rimanda a ulteriori forme di articolazione multilivello, quali sono quelle europee. Però quello che interessa sottolineare è che la modernità giuridica inaugurata col pluralismo giuridico apre la articolazione, la trasformazione in sistema complesso del diritto, non più unidimensionale, appunto, il diritto sapienziale, la sapienza giuridica, inaugura appunto la struttura a gradi dell'ordinamento di cui parla Kelsen, che poi si svilupperà con l'articolazione ulteriore della sovraordinazione della Costituzione alla legge, delle carte sovranazionali agli e comunque dei diritti sovranazionali agli ordini dei diritti nazionali, fino appunto alla prospettiva appunto di diritti, diciamo, di carattere globale. La terza separazione è forse, è difficile dire qual è la più importante, sicuramente non meno importante, ed è la separazione che si produce tra interessi pubblici e interessi privati. Interessi pubblici tutelati dal diritto, per così dire, eteronomo, e interessi privati affidati all'autonomia e all'autodeterminazione delle parti, quindi al mercato. Avviene con il superamento e lo sviluppo del capitalismo, dell'economia di mercato, dello stato patrimoniale premoderno, della struttura feudale. Qui naturalmente semplifichiamo, perché naturalmente questo tipo di separazioni, di concettualizzazioni, naturalmente non può che riguardare una realtà molto più complessa, ma certamente si produce, si sviluppa, questo è un tratto della modernità, una sfera pubblica eteronoma, quale sfera degli interessi generali, in opposizione alle sfere private degli interessi individuali e patrimoniali, anche a tutela degli stessi interessi economici, degli stessi poteri economici individuali e patrimoniali. La quarta separazione, qui vado in fretta perché poi ne parlerò più a lungo quando parlerò della crisi di queste separazioni, è quella, in un certo senso connessa alla terza, tra Stato e società, mediata dalla rappresentanza. Si produce una sfera politica dissociata dalla società civile e in rapporto con la società attraverso la mediazione della rappresentanza. Ho elencato quattro separazioni. Forse potrebbero essere tre, la quarta potrebbe essere inclusa nella terza, ma comunque questo è relativamente secondario. Tutto questo, diciamo che disegna un modello di Stato di diritto e ormai anche di democrazia costituzionale che si è sviluppato insieme anche ai suoi elementi di crisi. È un modello teorico, un modello normativo. Oggi la crisi è particolarmente, diciamo, profonda. Il diritto occupa spazi che non gli competono e si ritrae dagli spazi in grado di garantire le quattro separazioni. Innanzitutto diritto e morale, delitto e peccato, non mi ci soffermo a lungo, ho già accennato alla vicenda Englaro, alla pretesa delle chiese, comune a tutti i fondamentalismi, di modellare il diritto sulla base delle verità morali, per l'appunto assunte come, diciamo, non transigibili, no? Di solito, nella tradizione liberale, quel che non è transigibile sono i diritti fondamentali, viceversa qui Questa idea della non negoziabilità, per esempio, dal Papa, mi pare, viene presentata come non negoziabilità della propria pretesa di modellare il diritto secondo la propria morale. E questo si è manifestata appunto in Italia, la vicenda Englaro, le coppie di fatto, il divorzio, la stessa vicenda dell'aborto, la procreazione assistita, sempre è in nome della morale e non certamente della tutela delle persone, dei diritti fondamentali, anche se c'è la questione del feto, se persona o non persona. Adesso non è il caso di soffermarsi su questa questione, che è una questione tipicamente morale, perché persona non è un termine del linguaggio descrittivo, ma è un termine del linguaggio morale. E certamente abbiamo una pretesa che il diritto disciplini questi ambiti. Di solito si dice, quando viene richiamata la frase, classica frase, date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, si dice, si suppone, che la posizione laica vorrebbe dare a Cesare quel che viceversa i cattolici vogliono dare a Dio. E viceversa mi pare esattamente il contrario. Sono i credenti, i cattolici nel nostro caso, che vogliono dare a Cesare ciò che appartiene, per un non credente, non a Dio, ma certamente alla coscienza. Cioè l'inversione, la frase date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio, viene violata, a mio parere, dalla pretesa di dare a Cesare, cioè al diritto positivo, la disciplina di questioni che riguardano la sfera intima, la sfera della morale, e la cui autenticità consiste per l'appunto nella essere affidati all'autonomia della coscienza. La separazione di diritto e morale non significa affatto svalutare il punto di vista morale, che rimane il punto di vista esterno. Significa che non è compito del diritto appunto imporre una determinata morale e neppure invadere la sfera morale della vita della persona. Dal punto di vista liberale si potrebbe dire che esiste, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, il diritto alla malvagità, il diritto all'immoralità, il diritto all'ozio, il diritto al vizio, nel senso che sono questioni e cose che, se non si manifestano in comportamenti lesivi di terzi, non devono appartenere alla sfera del diritto, anche se appartengono ovviamente alla sfera della morale, che non è affatto secondaria. E per altro verso una confusione fra poteri ideologici, poteri così culturali e poteri politici si ha nel monopolio politico, economico, dei poteri mediatici, insomma questione ben nota. Secondo Bobbio, per esempio, il controllo politico dei media produce un capovolgimento, ma anche economico, del rapporto tra controllori e controllati, sono più gli elettori che controllano gli eletti, ma viceversa, e qui andiamo alla terza o quarta confusione. Il secondo, diciamo la seconda crisi, ma questa è molto meno rilevante, molto meno evidente, anche se rappresenta una tentazione ricorrente del potere politico, soprattutto dell'attuale governo, l'insofferenza dell'esecutivo per la indipendenza della magistratura, l'idea che insomma l'onnipotenza della maggioranza dovrebbe includere anche il potere giudiziario, nel senso che il potere giudiziario non si giustifica come potere indipendente, l'unica fonte di legittimazione è il consenso e non appunto l'applicazione di quella volontà popolare che pure si è manifestata attraverso la legge. Ci sono anche altre forme di confusione che qui sarebbe utile discutere. Io la vedo per esempio in molto neocostituzionalismo, è quello che assume i principi costituzionali come principi morali. Penso ad Alexi, penso anche al nostro amico Zagrebeschi, insomma c'è una concezione moralistica dei principi costituzionali che a mio parere indebolisce il ruolo normativo delle costituzioni, ma questa è una lunga questione che meriterebbe un lungo discorso e quindi ne accenno soltanto incidentalmente. Terza confusione è quella che in Italia viviamo in maniera clamorosa, ma che però è pure un fenomeno globale, per così dire, e cioè una nuova confusione tra poteri economici e poteri politici. E in un mondo sempre più complesso si tende alla semplificazione dei poteri. Non solo l'idea dell'onnipotenza della maggioranza e quindi la riduzione della complessità istituzionale, ma anche, insomma, questa confusione fra potere economico e potere politico, denaro per fare politica, politica per fare denaro, denaro per fare informazione politica, informazione per fare uno e l'altro, insomma, concentrazione e confusione dei poteri. E un risultato di questa confusione, a me pare, tra l'altro, è anche un venir meno della rappresentanza. La rappresentanza, sia quella giuridica che quella politica, suppone l'esclusione di conflitti di interesse. Il conflitto di interesse esclude, come ci insegnano i civilisti, la rappresentanza giuridica, ma esclude anche la rappresentanza politica, che comporta la rappresentanza degli interessi generali senza vincolo di mandato, tantomeno il mandato rappresentato dei propri personali interessi. E conflitti di interesse come quelli che appunto stiamo sperimentando in Italia finiscono per, che poi conflitto di interesse significa il primato dell'interesse privato sull'interesse pubblico, finiscono per rafforzare enormemente sia l'uno che l'altro. Tutte le separazioni sono forme di distribuzione e quindi di riduzione dei poteri, di bilanciamento, ogni potere ha un limite all'altro. Le confusioni sono sempre fattori di moltiplicazione e di accumulazione del potere, questa era la vecchia raccomandazione di Montesquieu, cioè tutti i poteri tendono ad accumularsi in forma assoluta e soltanto altri poteri possono limitarli. Questo vale per i tre poteri, ma vale anche per quella separazione tra potere pubblico e potere privato che non sta scritta in nessuna Costituzione, ma che fa parte dei presupposti dello Stato moderno, del costituzionalismo profondo, chiamiamolo come vogliamo, inespresso, sottinteso, presupposto, in assenza del quale non esiste, non diciamo democrazia rappresentativa, ma neanche Stato moderno. La quarta forma di confusione è quella più grave, è quella che si manifesta nella ideologia, perché di questo si tratta, in forza della quale la maggioranza o i rappresentanti sono tutt'uno con si identificano, incarnano la volontà dei rappresentanti. Questa è una tentazione presente in tutte le democrazie e che ha le sue forme più perverse nel fascismo. L'idea che la sfera politica incarni la volontà della società, sia tutt'uno con la società. Idea espressa da Schmitt nella sua forma più perversa, appunto il Führerprinzip, l'idea che esista una volontà popolare. Ecco, esiste una volontà popolare come volontà di un macro soggetto, di un unico soggetto, che è precisamente il popolo, che essendo un'unica volontà si rappresenta e si incarna in un unico soggetto, ed è una volontà omogenea, e un corollario di questa concezione, diciamo, organicistica del rapporto tra Stato e società, è la logica dell'amico nemico. Il diverso, l'altro è un nemico, no? Non semplicemente il nemico esterno, ma anche quello interno, che può essere di volta in volta il dissenziente, l'immigrato, il clandestino, lo straniero. In Schmitt questo è espresso nella maniera più terribile, no? L'ossessione identitaria, il diverso e l'altro come nemico. Ma una tentazione, diciamo, naturalmente si tratta di fatti culturali, a identificare la rappresentanza con la società è presente purtroppo nella logica stessa della democrazia. Constant scrive delle cose molto anche divertenti a suo modo, dice è un lascito questa ideologia che anche le opposizioni difendono perché si preparano ad ereditare il lascito che per l'appunto ideologico, che per l'appunto viene la principale fonte di legittimazione. La fonte di legittimazione è una forza dalla quale la volontà dei rappresentanti è la volontà del popolo sovrano. Kelsen, in opposizione a Smith, come è noto, ricorda che questa volontà unitaria semplicemente non esiste, cioè non esiste perché il popolo macrosoggetto non esiste, esiste una pluralità di persone che fortunatamente la pensano diversamente e che l'unica cosa che decidono è andare a votare per questo o quel partito e quindi ad eleggere i rappresentanti, la cui volontà resta comunque differente, è il miglior metodo di selezione, il metodo democratico fondato per l'appunto sui diritti politici, a condizione che non si mistifichi, non si confondano le due cose. A me pare che questo sia il tratto specifico del fascismo, cioè l'idea del rapporto organico fra capo e popolo, che non a caso si qualifica come totalitario, come onnipotente, e ha come, diciamo, implicazione la negazione della separazione dei poteri ed anche della garanzia dei diritti fondamentali che sono contropoteri, e cioè di quei due elementi che il famoso articolo 16 identifica come i connotati della Costituzione. Il fascismo sotto questo aspetto è la negazione della Costituzione, se per Costituzione si intende separazione dei poteri e garanzia dei diritti fondamentali, così come la Costituzione, almeno nel senso definito dall'articolo 16, è la negazione del fascismo, inteso fascismo come volontà organica, unitaria, che è cosa diversa dalla dittatura appunto militare che si afferma con la repressione, è l'idea di un rapporto organico terra sangue tra capo e popolo. Adesso a me pare che ovviamente non possiamo parlare, insomma, una tentazione di questo genere è presente in tutti i processi di verticalizzazione e personalizzazione e in tutte le forme di culto del capo. Io credo che queste cose vanno considerate con un'enorme preoccupazione. Tutte le forme di culto del capo come rappresentante organico sono forme, diciamo, di degenerazione fascista della democrazia. Questa idea è un'idea anticostituzionale innanzitutto, perché è in contrasto con i limiti e i vincoli, questa è la Costituzione, imposti a tutti i poteri. Le Costituzioni sono limiti e vincoli ai poteri, e l'idea dell'onnipotenza della maggioranza e quindi del capo della maggioranza è un'idea anticostituzionale, ma anche un'idea antirappresentativa, perché una sola persona per definizione non può rappresentare un intero corpo sociale, no? Kelsen ricordava quella cosa che io ricordo spesso, tutti l'hanno sentita, no? La frase di Platone, passo della Repubblica, in cui dice Kelsen, interamente nello spirito di questo principio, e cioè il principio secondo cui la democrazia si caratterizza per l'assenza di capi. La mancanza di capi è il connotato della democrazia, e l'assenza di capi non deve essere lamentata come una debolezza, supponiamo, di uno schieramento politico, come avviene per esempio con la nostra sinistra. Interamente nello spirito di questo principio, dice Kelsen, sono le parole di Platone, che fa dire a Socrate, in risposta alla domanda su come dovrebbe essere trattato uno stato ideale a un uomo dotato di qualità superiore, un genio, dice: noi l'onoreremmo come un essere degno di adorazione, meraviglioso ed amabile, ma dove gli fatto notare che non c'è uomo di tal genere e non ci deve essere nella nostra Repubblica, cintoli il capo dall'oro, lo accompagneremmo alla frontiera. Questo è il tipo di raccomandazione che faceva Socrate, appunto, perché questi esseri meravigliosi sono per l'appunto la principale minaccia per la democrazia. Quindi, concludendo, quattro separazioni oggi tendenzialmente in crisi, forse è sempre stato così, ma oggi la crisi mi sembra molto più profonda del solito. Grazie.